Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, avevamo un appuntamento, eccoci, sono le 11.06, pronti per parlare della nostra salute. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, andiamo. Chirurgia refrattiva, quando non sa da fare. Un frigorifero a misura di single. Prostata, le indagini diventano meno invasive. Laser o lenti? Questo è il dilemma che diventa un po' il tema di questa puntata in cui parleremo dei disturbi refrattivi per trovare non una ma la soluzione migliore al nostro caso, che potrebbe magari anche essere quella di continuare a portare gli occhiali o le lenti. Ci sono infatti tanti aspetti da considerare per prendere una decisione. Se la state prendendo, chiamateci subito all'824-0024. I messaggi al 349-238-6666. In studio con me, tornate a trovarci, il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Allora, è un intervento molto richiesto, molto praticato, ma non è per tutti. No, direi di no. Guardi che gli scarti fra tutte le persone candidate direi che superano nell'insieme circa il 50% delle persone che vogliono, vorrebbero farlo. Fra l'altro consideriamo che in Italia ci sono intorno ai 3 milioni di miopi, sì, e gli interventi eseguiti più o meno si aggirano intorno ai 100.000. Quindi, Non tutti i 3 milioni lo chiedono, certo, però sicuramente la quantità di interventi, pur essendo elevata, non necessariamente implica che tutti vadano a farsi operare. E sicuramente ci sono alcune considerazioni che andremo a fare, penso, in questa. Certo, in perché proprio oggi vogliamo capire quando l'intervento fa il caso nostro e quando invece no. Esatto, quindi esatto, ci sono diverse condizioni in cui l'intervento è assolutamente controindicato. La prima che mi viene in mente, tanto per introdurre la cosa, per esempio pensiamo a una donna giovane che sia o scopre di essere in gravidanza. Non si può fare. È meglio di no, perché vanno somministrati farmaci locali, per esempio il cortisone, che serve a guarire meglio, che non vanno bene assolutamente in gravidanza. Quindi, per esempio, è un periodo ed che è va solo escluso. Uno dei casi, perché poi ci sono tanti aspetti, esatto, che vanno considerati. E poi nel momento della decisione uno deve un po' considerare naturalmente tanti aspetti: la propria età, il, certo, tipo di vita, ci sono, certo, com'è la propria cornea, cosa che deve stabilire ovviamente questo l'oculista, l'oculista, certo, l'età e anche il tipo, il ritmo di vita. Non so, sono presbite, sono sportivo, faccio un mestiere o una professione che mi richiede, o sarebbe meglio che fosse senza occhiali. Ci sono tanti aspetti, che incluso anche la paura. Inclusa la paura, anche le nostre attese, perché, naturalmente, perché quelle sono importanti. Per esempio, le posso dire che molte persone che hanno caratteristiche non esattamente confacenti dicono: beh, ma guardi, io mi accontenterei anche di poco. E questo secondo me è errato, perché o si è adatti e si fa bene, o non si adatti ed è meglio di no. E si portano gli occhiali, esatto, come fanno anche molti oculisti. Come faccio io, per esempio. Sì, infatti, intanto che voi chiamate all'824-0024 se siete lì per farvi operare, se ci state pensando, se avete eseguito questa operazione, volete anche raccontarci com'è andata, come, certo, ci vedete, se ci vedete bene, se sono passati degli anni, perché anche quello ha sicuramente il suo peso. Vi aspettiamo anche via SMS al 349-238-6666. Io chiedo alla regia di chiamarci il nostro prossimo ospite, che devo dire abbiamo cercato un po' col lanternino, perché è un oculista senza occhiali. Se li è tolti dopo aver affrontato un intervento di chirurgia refrattiva, allora ci faremo raccontare da lui, perché dottor Scialdone, spesso anche i nostri ascoltatori che intervengono o tra amici, uno va da un oculista e che porta gli occhiali e che ti suggerisce un intervento. pur essendo miope come te, allora il dubbio legittimo dice: ma che cosa sa lui di più che non mi dice, dato che non si è fatto fare l'intervento? Magari non aveva le caratteristiche adatte, magari con gli occhiali ci sta bene, ma il dubbio viene. Naturalmente, beh, io posso dire, ora siamo in radio, quindi non siamo visibili a video, però io ho un'età di essere presbite e sono leggermente miope, quindi avrei potuto fare l'intervento alcuni anni or sono, però erano gli anni in cui il laser non era diventato ancora proprio di routine, sì. Quindi c'erano ancora alcune incertezze, quindi aspetta un anno, aspetta due di avere la tecnologia è perfetta. È passato il suo momento. Esatto, è passato Scialdone. Il mio momento, eccetera. Ma noi la teniamo qua, anche se è passato il suo momento, perché ci darà delle indicazioni importanti. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Per scelta o per necessità, vivere da single può avere i suoi vantaggi, ma anche necessariamente, come per tutte le cose, le sue difficoltà. Una di queste, ad esempio, è non è da poco, è seguire una dieta sana, varia, equilibrata, perché spesso i single, e lo confermano anche le ricerche, se non bastasse un po' vederli quando si aggirano sperduti nei supermercati, acquistano cibi pronti, scatolette surgelati. Fanno bene, no? Perché la loro vita è un po' organizzata sul mordi e fuggi, e trascurano in genere i prodotti facilmente deperibili, la frutta, le verdure, il pesce fresco. Così la loro dieta rischia di diventare un po' monotona e nutrizionalmente povera, perché i medici lo ripetono da anni: è nella varietà il segreto per mangiare bene. Ma in aiuto dei nostri single abbiamo in linea il dottor Attilio Speciani, che è tornato a trovarci, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Le mie papere di oggi le ho già fatte, per cui adesso vanno a posto. Benissimo, così organizzeremo menù speciali per i frigoriferi dei nostri single. Dai, allora, iniziamo ad organizzarci un po'. Forse è il tempo che manca. Ma indubbiamente il tempo manca. Io devo dire però che ci sono dei piccoli trucchi che partono intanto da un processo culturale, cioè che cosa faccia bene, sì. Per cui una volta che capiamo che comunque frutta e verdura fanno bene, allora è poco bello recuperarsi tanto costosissime le miscelazioni di macedonie o di verdure già fatte, già preparate in monoporzione, sono anche belle, si trovano, poi però se uno se le dimentica vanno male in fretta, sì. Sono costose. Io trovo molto più utile sapere che uno da single deve fare delle scelte, per cui la volta che andrà fuori a mangiare mangerà sicuramente anche qualcosa di diverso, però tenersi in casa ad esempio delle mele, delle pere, le tengono in serbatoio per mesi, se noi le teniamo per 15 giorni in frigorifero non succede nulla, dei dubbi. Anzi, abbiamo delle sostanze che sono ottime, che sono quel crudo vivo e colorato che ormai si sta documentando come uno degli strumenti per stare bene. Una delle cose utili, ad esempio, carote. Le carote si conservano a lungo. Non è necessario oggi, per come sono prodotte le carote in Italia, dover pelare le carote completamente e dedicare un mucchio di tempo. Basta uno spazzolino, la carota va passata sotto l'acqua corrente spazzolata, cioè si toglie effettivamente quello che ci può essere, poi va sgranocchiata, fa bene ai denti, fa bene allo stomaco, fa bene a tutto il resto. È un ammazza fame poi. Ma assolutamente, imparare a comperare, se uno passa occasionalmente uscendo da una seduta di lavoro, passa davanti a un verduriere, ecco che il grappolo d'uva piuttosto che la frutta di stagione che può comparire, se ne prende un po' e questa si mangia rapidamente. Ma una base delle verdure e della frutta utilizzabili bene, cioè mele, carote, le segnalo perché sono le più facili da gestire, sì. Un sedano, sono sicuramente gestibili in qualsiasi situazione, come intermezzo di pranzo, eccetera. E qui veniamo ad altri due elementi. Trovo che una delle cose deleterie, ma questo lo vedo da medico nei single, è che normalmente c'è l'utilizzo del pane, no? Che sono crackerini, biscottini. Sgranocchiano i single. Sono degli sgranocchiamenti assolutamente deleteri. Sono pieni di sale, sono pieni di grassi idrogenati vegetali. Lancio un appello per le nostre single: grassi vegetali idrogenati significa produzione di radicali liberi, significa rughe. Non tocco il tema delle malattie degenerative. Allora, contro le rughe, contro la ciccia, secondo me mettiamo in moto qualcosa di più sano. Sì. Ad esempio, se uno al sabato si prepara, prende ad esempio del couscous, il couscous si prepara, uno impiega un'oretta a prepararlo, basta bollirlo, cioè avere alla fine questa semola di frumento integrale. Per chi non conosce il couscous è come se fossero spaghetti microframmentati, no? Sì. Quindi abbiamo una sorta di pasta che può essere utilizzata. È una base magnifica, come anche l'orzo, il farro, il riso integrale. Il riso integrale, cioè il riso baldo, il riso, sono risi ad esempio che possono avere una tenuta, l'importante è non tenerli umidi, cioè vanno scolati molto bene e tirati fuori dalla pentola quando uno li ha semplicemente anche preparati bollendoli, molto al dente, in modo tale che non abbiano un inizio di disfacimento. A quel punto anche 8-10 giorni in frigorifero sono benissimo gestibili. A quel punto, anziché mangiarsi dei cracker, dei grissini, delle cose che hanno delle valenze poco positive, ecco che una manciata di questa sostanza, eventualmente passata un attimo nel forno a microonde, dopodiché, solo dopo, ci aggiungiamo dell'olio buono, un goccio di olio d'oliva, un micro trito, e insomma, bisognerà mettere dentro un po' di iniziativa. Ecco, un po' di fantasia. Dottor Speciani, anche i single riescono a mangiare bene, soprattutto un consiglio, il single spesso, ne parlavamo con il dottor Scialdone prima di entrare in onda, si gratificano molto volentieri, quindi si prendono lo stuzzichino, ecco, concedetevi anche questo, ma fate scorta in frigorifero di alimenti freschi che potete sgranocchiare al posto dei crackers. Dottor Speciani, grazie. Grazie anche a voi, a presto. Buona giornata. Pronto soccorso. Mi opero o non mi opero? Parliamo di chirurgia refrattiva per correggere i disturbi visivi. In studio con me il dottor Scialdone, in linea con noi il professor Severino Fruscella, docente alla scuola di specializzazione di oftalmologia all'Università di Roma Tor Vergata, oculista senza occhiali. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore, lei è quasi una mosca bianca. Molti dei suoi colleghi agli occhiali sono affezionati. Ne parlavamo prima col dottor Scialdone, forse rientrano nei casi e noi ne parleremo oggi, perché ci sono in cui l'intervento è sconsigliato. Lei che difetto ha corretto? Io ho corretto una miopia di circa 6 diottrie con un leggero astigmatismo. Senta. Quindi è uno di quei difetti di vista che si corregge normalmente con il laser eccimeri, che è la metodica di elezione per questo tipo di correzioni. Quando ha preso la decisione, professor Fruscella, e cosa soprattutto l'ha spinta a prenderla? Ma io questo intervento l'ho fatto molti anni fa, l'ho fatto circa 9 anni fa, e chiaramente ci ho pensato un pochino, perché sono sempre decisioni che vanno meditate, e la motivazione fondamentale è stata quella di non essere più schiavo degli occhiali o delle lenti a contatto, e quindi di liberarmi da questa protesi, che comunque è fastidiosa, crea dei problemi, quindi una motivazione tipo funzionale. Gli uomini in genere scelgono sempre una motivazione funzionale, le donne può essere funzionale, a volte può essere anche un fatto estetico. Estetico. Senta, professore, i medici dicono, sono pazienti difficili. Lei che paziente è stato, conoscere ad esempio tutti i dettagli dell'operazione che lei stesso pratica, l'ha aiutata o invece le ha fatto magari rimandare, non dico di anni, ma di qualche mese la decisione? No, beh, è stata una decisione che non ho deciso da un giorno all'altro, ma comunque ho riflettuto, anche perché io conosco questa chirurgia, perché è una chirurgia che è nata circa 20 anni fa, quindi già nel 2000, quando ho fatto l'intervento, era una chirurgia che aveva 10 anni di follow-up, di esperienze, e quindi avevamo una casistica estremamente vasta di milioni di interventi effettuati nel mondo. Quindi insomma avevo una perfetta cognizione di quello a cui sarei andato incontro, e siccome è una chirurgia che se le indicazioni sono corrette, se il laser che viene utilizzato è un laser giusto, se l'equipe chirurgica si comporta come si deve comportare, i rischi sono veramente bassissimi, e quindi ho fatto questo intervento con una certa serenità, insomma, senza particolari problemi. Ma il consiglio che si sente dare da paziente a paziente, lei è un paziente particolarmente competente, ma pur sempre è stato un paziente, quindi a tu per tu, quasi sottovoce, che cosa può dire magari ad un nostro ascoltatore che è lì per prendere questa decisione? No, io posso dire che questa è una chirurgia sicura, se viene fatta correttamente, e ripeto, i rischi sono veramente bassissimi, al di sotto nettamente dell'1%, e comunque sono delle situazioni che si risolvono. E chiaramente poi c'è la componente emotiva, che varia da persona a persona, perché pur essendo uno cosciente di quello che sta facendo, c'è chi lo può affrontare più serenamente e chi con più patemi d'animo. però è un intervento che, ripeto, con le dovute indicazioni io consiglio caldamente. Professore, adesso le chiedo di rinfilarsi il camice. Alcuni temono che con il passare del tempo i benefici della chirurgia refrattiva si perdano, che insomma la situazione torni più o meno come prima. Che cosa possiamo dire a riguardo? Può capitare, può succedere oppure no? Ma è molto raro, nel senso che normalmente questa chirurgia ha una fase di assestamento che dura alcune settimane, poi una volta che la cornea si è stabilizzata non si modifica più negli anni, tranne in rarissimi casi. In qualche caso la miopia può aumentare, ma anche per altri motivi. Se per esempio si opera un ragazzo troppo giovane che magari ha 18-20 anni, la sua miopia può essere predisposta ad andare ancora avanti, quindi ci può essere un'evoluzione della miopia in futuro, oppure nelle persone di una certa età possono avere un cambiamento di miopia legato a un cambiamento del cristallino, cioè della lente che è all'interno dell'occhio. Ripeto, sono cose rarissime, teniamo conto che negli anni questi laser che noi utilizziamo sono evoluti moltissimo, adesso i laser che vengono utilizzati fanno questi trattamenti che si chiamano customizzati, ovvero personalizzati, il che vuol dire che non c'è cuciti su misura, ecco. Su misura, cioè vengono fatte prima delle valutazioni della cornea del singolo paziente, che presenta sempre delle piccole differenze tra paziente e paziente. Sulla base di queste analisi che vengono fatte sulla cornea, il laser viene programmato per ottenere un trattamento preciso e personalizzato per quel determinato paziente, quindi sono degli interventi molto sofisticati. Professor Fruscella, io la ringrazio, anche grazie i nostri ascoltatori sono contenti e un po' stupiti che con la redazione siamo riusciti a trovare un oculista senza occhiali, ma non perché ci vedeva bene, ma perché appunto si è fatto operare, quindi la ringrazio. Ha soddisfatto anche i nostri ascoltatori da casa. Grazie professore. Grazie ancora, arrivederci. 824 0024 se volete intervenire. Abbiamo già Pietro dalla provincia di Cremona e Maria Rosa da Padova. Li faccio attendere un attimo perché, dottor Scialdone, ci sono però persone che dopo la chirurgia refrattiva con lenti occhiali chiudono definitivamente, altri invece che devono comunque portare gli occhiali. Ma questo quindi si può sapere prima dell'intervento? Non è una sorpresa? No, non è una sorpresa. Perché i tessuti non sono sempre uguali, l'occhio reagisce, guarisce, si modifica, quindi non è un pezzo di legno che possiamo modellare esattamente come vogliamo, soprattutto nella fase di guarigione. Quindi possiamo dare delle percentuali di sicurezza in genere, sì, per l'intervento, e più è alta la miopia più la percentuale diventa un filino meno precisa, sì. Diciamo che per un miope di 2-3 diottrie il 90-95% di possibilità di andare a uno zero assoluto. Se prendiamo un meno 10 ad esempio, la possibilità scende di un 10%, quindi è funzione poi anche dei parametri dell'occhio, che di cui penso che parleremo, certo, fra poco, voglio... perché anche quello modifica la probabilità di avere un pieno successo da un punto di vista refrattivo, cioè di occhiale. Pietro ci chiama dalla provincia di Cremona, buongiorno Pietro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, ascolto sempre Nicoletta. Oh, grazie. Cade Pietro. Cade proprio a fagiolo. Bene, mi sento un fagiolo allora. Si opera lunedì per, con il laser per correggere, sì, quale difetto? Io sono presbite. Sì? Non ho mai portato gli occhiali. C'è due domande che vorrei fare al professore. Certo, Pietro. Perché ho già fatto tutte le visite preliminari, cioè praticamente io sono abile per essere operato, sì, in pratica. Sì. Poi abbiamo fatto anche una riunione. Di presbiopia, però vero Pietro? Sì. Si fa operare per la presbiopia. Sì, presbiopia. Okay. Sì. Due domande allora, Pietro, che così diciamo al dottor... Due domande. Sì. Siccome io sono un podista proprio accannito... Sì. E siccome l'ultima riunione mi hanno detto di stare 3 giorni al buio, sì, e poi fare 2 o 3 giorni che mi levano le lenti a contatto che mi mettono loro, dopo, sì, una settimana io posso ricominciare a correre. L'altra domanda, Nicoletta, sì, è per vorrei me? Capire, sì, vorrei capire a titolo puramente informativo, ma quando vieni operato col laser, come fanno a capire cosa devono fare quando uno è presbite, quando uno è miope? Cioè, certo, qual è il raggio di luce? Quali sono i secondi? Cioè, è questo, non so se mi sono spiegato. Sì, ma Pietro, per questa seconda domanda io penso gli oculisti studiano anni, fanno corsi, comunque no? Vi sapete orientare. Diciamo che non è una cosa da profani, sembra complesso, ma in realtà la vista anche del nostro Pietro è stata certamente misurata in varie condizioni. Questi dati presi dall'oculista, dai tecnici eccetera, vengono immessi nei laser che hanno all'interno dei software come dei grossi computer, i quali elaborano i dati e poi fanno un programma di trattamento di emissione. Quindi una parte è, come dire, tecnica oculistica, un'altra parte è tecnologia laser, e le due cose devono combinarsi, anche come ha detto per esempio Fruscella prima. Sì, certo. No? Che ci sono questi trattamenti personalizzati per casi di cornea un po' particolari, un po' irregolari, che danno dei risultati migliori. Per quanto riguarda la domanda, la prima domanda di Pietro, Pietro vuole andare a correre, insomma. Vuole andare a correre, io però Pietro, gli consiglierei di avere un attimino di, magari fai il tapirulano in casa, perché la cornea deve anche guarire. Ora io non so che tipo di tecnica useranno, ma se è una tecnica chirurgica, 4 o 5 giorni glieli vogliamo dare a quest'occhio. Ecco, questo va sempre, è un'indicazione che è valida per tutti le correzioni? Dopo gli interventi, qualunque tecnica utilizzata, meglio che uno stia tranquillo qualche giorno? Ma un filino direi di sì. Le cose si differenziano a seconda delle tecniche, cioè una LASIK, di cui magari dopo diamo qualche indicazione, tra una LASIK e una PRK, cioè una tecnica di superficie o di profondità. Però comunque 3-4 giorni, 2 giorni, regaliamoceli. Esatto. Volevo salutare Maria Rosa da Padova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io l'ascolto sempre con tanto amore, perché lei è una donna proprio che fa anche per gli anziani. Grazie Maria Rosa. Senta, e lei si è fatto operare? Pensa di farsi operare? Porta gli occhiali? Guardi, che fa? Adesso le dico, ho preso una botta con legno su un occhio. Sì. Sono andata a pronto soccorso a Dolo, di provincia di Venezia. Sì. E hanno detto che è una catarata, però io soffrivo sempre di miopia, non vedevo neanche i numeri del non avevo gli occhi. Quindi Maria Rosa, lei ha preso due piccioni con una fava, in fondo, no? È stata operata di... sono stata operata il primo occhio, il destro, a marzo. E poi ha fatto una seconda operazione. Essere un'altra persona. Senta Maria Rosa, quindi la sua è una testimonianza positiva. È stata operata, ha avuto un trauma, le hanno diagnosticato la cataratta e Maria Rosa è stata operata e adesso vede bene. Certo, questo ci dà la possibilità di specificare una cosa, cioè che nelle miopie molto elevate e ovviamente anche, mi pare dall'età, di sentire un po' dalla voce la signora Maria Rosa, non è necessario ricorrere al laser e cimeri, ma l'intervento di cataratta al limite un filino anticipato può permettere di correggere il difetto di vista. Magnifico. Oggi parliamo di chirurgia refrattiva, luci e ombre, le indicazioni, le controindicazioni, parleremo di come deve essere questa cornea che viene, no? rimodellata dal laser. 824-0024, il dottor Cialdone è a nostra disposizione, potete continuare a chiamare, ma io prima vorrei aprire una piccola parentesi per parlare di un esame per la diagnosi di tumore alla prostata. In linea con noi abbiamo il professor Sciarra, specialista in urologia, professore universitario presso l'Università Sapienza di Roma, che lavora all'ospedale policlinico Umberto I. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti questa novità? Sì, è una notizia interessante sia per il medico, l'urologo, sia che per il paziente. Questo mi interessa. Parliamo di tumore della prostata, quindi un tumore molto frequente in cui la diagnosi precoce ha una grossa importanza per dare una terapia valida. Al momento attuale c'è il PSA, che però è un marker più di organo che di tumore, quindi un aumento del PSA non è specifico per il tumore alla prostata. Sì. E quindi costringe il paziente a un numero di biopsie a volte non giustificato, le biopsie e così via. Ora, la novità è la risonanza magnetica con studio spettroscopico e dinamico della prostata. Un nome difficilissimo, mi spieghi, che cosa vi permette di vedere e perché? Certo. E per il paziente è assolutamente un'indagine non invasiva, è una risonanza magnetica a tutti gli effetti che dà un'ottima immagine della prostata, su cui però va a studiare un metabolismo della prostata con alcune sostanze, si chiamano colina, creatina e citrato, che hanno concentrazioni diverse quando c'è un tumore o quando invece c'è un'infiammazione o c'è un'ipertrofia. Quindi quello che fa è come un mappaggio di tutta la prostata di aree a rischio per tumore. Per il paziente che significa? Che invece di fare un numero enorme di biopsie non giustificate o delle biopsie cosiddette random, casuali, si fanno delle biopsie mirate e quindi c'è più probabilità di trovare il tumore quando questo c'è, quindi grosso aiuto nella diagnosi precoce. Sì. Da parte del paziente minor disconforto nel fare un numero elevato di biopsie, biopsie inutili. Professor Sciarra, quindi questo è sicuramente un passo avanti, un esame che si sta diffondendo un po' in tutta Italia, vero? Noi l'abbiamo utilizzato, lo stiamo utilizzando qua al nostro policlinico, ma ormai tutti i centri maggiori pubblici in Italia è disponibile e aiuterà sempre di più i pazienti con sospetto e anche durante poi il trattamento del carcinoma prostatico. Professor Sciarra, grazie per essere stato con noi e per averci spiegato e dato questa notizia. Buona giornata. Buona giornata. E noi andiamo a Lecco, ci aspetta Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda al professore. Sì. Premetto che io sono miope di una diottria e leggermente astigmatico, quindi porto gli occhiali solo per vedere televisione, per guidare la sera e mi danno fastidio. Volevo chiedere se per diottrie così basse è possibile comunque fare l'intervento, la prima domanda, e la seconda domanda, a livello economico, se l'intervento è completamente mutuabile o è un intervento privato. Grazie Marco, allora, perché rispondendo a Marco io vorrei poi parlare, quindi dare ai nostri ascoltatori come promesso un elenco delle indicazioni e delle controindicazioni. Abbiamo intitolato la puntata "Quando la chirurgia refrattiva non sa da fare", proprio per sottolineare i casi in cui non ne vale la pena, non è possibile, eccetera. Allora partiamo dal nostro amico dandogli una risposta e poi facciamo un po' il quadro della situazione. Diciamo che lui mi aiuta a parlare, cominciare a parlare dei limiti bassi. Sì. In realtà non esiste un limite basso, tranne diciamo una convenienza minima in rapporto alla qualità di vista. Sotto la mezza diottria probabilmente ci si vede talmente bene che non ha molto senso. Sì. Una diottria e mezza anche con un leggero astigmatismo come Marco vale sicuramente la pena. Dalla voce io non so che età avesse Marco. Sì, penso che ci stia seguendo in radio, vero? Sì. Se Marco è... Mi sembra giovane. Se è giovane, problemi, diciamo, da questo punto di vista non ce ne sono. Se invece Marco fosse presbite, magari a 45-50 anni, dovrebbe considerare che se toglie la sua diottria, poi il giornale senza l'occhiale non lo legge più. Ha bisogno, quindi quello che guadagna da una parte lo perde dall'altra. È una scelta personale, diciamo, questo è lo stile di vita, come si diceva prima. Per quanto riguarda le controindicazioni invece, che sono un argomento di un certo rilievo, anche se non amplissime, dal punto di vista generale sono sicuramente alcune malattie sistemiche. Un diabetico, soprattutto se è un diabetico con l'insulina, un diabetico da molto tempo, è una persona che ha delle alterazioni di risposta tessutale e quindi è meno conveniente che faccia l'intervento. Sì. Ci sono altre controindicazioni generali, che sono per esempio le collagenopatie, cioè alterazioni del collageno, spesso sono nell'anziano, l'artrosi, l'artrite, via dicendo, ma anche talora nel giovane, e in questo caso è meglio evitare perché la cornea reagisce male. Altre controindicazioni, per esempio glaucoma. Cose importanti da evidenziare, soprattutto chi ha non solo la pressione alta ma ha dei parenti stretti, genitori, fratelli con un glaucoma, deve far fare uno screening, ovviamente stare molto attento, perché dopo l'intervento di laser si devono instillare colliri con il cortisone, che è in genere controindicato nel glaucoma. E un'altra cosa che molti non sanno ma gli oculisti sì, e cioè che la modifica della superficie dello spessore corneale dopo il laser non fa prendere bene, correttamente, la pressione dell'occhio, cioè non abbiamo ancora strumenti che hanno superato questo tipo di problema. Quindi se ho un glaucoma dopo non riuscirò a misurare bene a che punto sono. Sì, e questo non va bene. È assolutamente importante. Possiamo andare a Roma, andiamo a salutare Anna. Anna, buongiorno. Buongiorno, io sto diventando una dottoressa dietro voi. Grazie per la trasmissione. Proprio ieri ho fatto la visita oculistica per l'ennesima volta, ho 53 anni, sì. Mi ha sconsigliato l'oculista di fare l'intervento. Io ho l'occhio destro che è completamente astigmatico, mentre l'occhio sinistro è completamente miope. Quindi ero adattissima per fare questo intervento, soltanto mi ha già risposto, credo, il professore. Tutti e avanti detto... questo dottor Scialdone, risponde ancora prima di essere interrogato, Anna. Sì, perché praticamente adesso che cosa mi succede? Con l'occhio destro io vedo bene da lontano e male da vicino, con l'occhio sinistro vedo bene da vicino e male da lontano, perché ho una miopia molto forte all'occhio sinistro. Ma scusi, quanta miopia, Anna? 6 contro un 0,75 all'occhio destro. Ah, ho capito. Però vede, se mi permette, io approfitto dell'occasione per commentare. Tutto dipende dallo stile di vita ancora. Lei con lo 0,75 vede bene da lontano, ma se vuole vedere bene alla guida, in realtà dovrebbe mettersi un occhialino. Poco poco, ma ci dovrebbe essere. Secondo, vede con un occhio solo, perché col meno 6 lei non può vedere bene senza occhiali. Assolutamente, io infatti porto gli occhiali. Quindi per vicino lei vede bene con un occhio, che è quello del meno 6, ma in realtà vede bene molto vicino. Deve avvicinare parecchio e questo non è molto comodo. Poi se uno si accontenta, per questo diceva anche prima Fruscella, bisogna parlare con le persone, col paziente o con chi vuole parlare e capire che cosa vuole da se stesso e dalla vita e quindi realizzare la cosa. Con un meno 6 non posso leggere senza occhiali un giornale a una distanza ragionevole o un computer, non solo, ma lo vedo con un occhio solo. Quindi potrebbe essere invece ragionevole togliere il meno 6 dall'occhio in modo che appareggiare due occhi, lasciarle per esempio un meno 0,75 e tutti e due lei ha due occhi simili. Sì, non che ognuno vede in un modo ma diverso. Ma per esempio, ora faccio per dare un'indicazione. Certo. Anna, un parere in più si aggiunge, quello del dottor Scialdone, ai medici che lei ha consultato. Anna è ancora in linea con noi. Ci faccia sapere come va a finire questa cosa degli occhiali, non occhiali, vicino, lontano, l'intervento. Sì, senz'altro, grazie. Ci teniamo. Eccoci, siamo tornati insieme. Abbiamo Valentina che ci chiama da Brescia. Buongiorno Valentina, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti un po', come vede lei? Sì, io ho 36 anni, siccome avevo una mezza idea di fare anch'io la correzione per la mia miopia, non è eccessiva, io potrei anche fare a meno, 3,5 da una parte e 2 da quell'altra. Sì, perché le è venuta l'idea? Perché le danno fastidio gli occhiali? No, così. Perché mi guardo le persone che l'hanno fatta e ho notato, se non so se è un'impressione mia, che dopo l'operazione, dopo la convalescenza... Mi sembra che abbiano tutti un po' lo sguardo un po' perso, uno sguardo diverso da prima. Valentina, non l'avevo notata, adesso ci farò attenzione. Dottor Scialdone, è vero. E lei l'ha notato? No, anche lei? È vero, nel senso che i miopi medio-elevati conservano anche dopo l'intervento, non tutti, ma molti, conservano uno sguardo un po' da miope, le palpebre un po' alla Marilyn? Sì, esatto. Beh, che può essere anche affascinante. Valentina, se abbiamo lo sguardo alla Marilyn, no? Mica male. Beh, però non mi sembra un valido motivo per rinunciare, questo, francamente. Ma poi passa o rimane questo sguardo? Ma diciamo nel miope medio-basso, come Valentina, un 3 diottrie, 2,5 è una cosa abbastanza improbabile, Allora, dottor Scialdone, io vorrei sottoporle questo SMS che ci fa tornare a parlare di età, di presbiopia, di miopia, conviene o non conviene. Sono miope, 6 diottrie, leggermente astigmatica. L'oculista mi sconsiglia l'intervento a causa della presbiopia incalzante. Ho 40 anni, qual è la vostra opinione? Dunque, allora in generale viene detto che la miopia dopo i 45-47 compensa la presbiopia, sì. E questo se io non porto gli occhiali. In realtà tutti siamo presbiti dopo una certa età. Quindi la considerazione base è che qualsiasi tipo di intervento io faccia, fin quando, e non è oggi ma sarà probabilmente nei prossimi anni, ci sia un intervento ben valido per la presbiopia, che io faccia o non faccia il laser, un occhiale sul naso ce l'avrò sempre, perché se metto a fuoco per il computer non metto a fuoco per lontano, se faccio per lontano ce l'avrò per vicino. Quindi un occhiale, diciamo un multifocale o quello che sia, sul naso ce l'avrò sempre. La considerazione non è tanto quella quanto che cosa voglio dalla vita, qual è il punto in cui, se io gioco per esempio molto a tennis, non mi importa se metto l'occhiale per vicino, vorrò correggere la mia miopia per giocare a tennis senza occhiali, certo, per esempio. Quindi è molto importante stile di vita. Tanto che quando andiamo a parlare con l'oculista dobbiamo esattamente raccontargli un po' come viviamo, che quali sono le nostre aspettative. Dottor Cialdone, tra le non indicazioni all'intervento, lei ha citato la miopia molto elevata. Sì. Ma per chi non vuole darsi per vinto, per chi vuol far qualcosa, in linea con noi abbiamo il professor Scipione Rossi, primario del reparto di microchirurgia oculare del San Carlo di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, professore, scusi, ma per miopia molto elevata, che cosa si intende esattamente? Diciamo che c'è una distinzione da fare tra quello che si intende per miopia elevata nei testi classici e quello che si intende per miopia elevata riguardo la chirurgia refrattiva. Nel testo classico e anche, diciamo così, nell'accezione comune dell'oculistico, una miopia elevata è quando supera le 15-20 diottrie, diciamo così. Però diciamo che in tema di chirurgia refrattiva, già al di sopra delle 10 diottrie, 10, 11, 12, è ben difficile riuscire a correggere con il laser il difetto, perché, come aveva già detto il dottor Cialdone, modificare la cornea più di tanto non è possibile. Professore, in questi casi quali sono le possibili soluzioni? Una soluzione che consiste nella introduzione all'interno dell'occhio con un intervento di una lente speciale che è capace di correggere le miopie molto elevate. Questo tipo di lente può essere usata in pazienti assolutamente selezionati che abbiano caratteristiche di anatomia dell'occhio che siano capaci di accettare questa lente. E questa lente, tra l'altro, deve essere controllata nel tempo per verificare che l'occhio, appunto, la accetti in modo... Quindi controlli regolari. Assolutamente sì. Diciamo che c'è un'indicazione per controlli semestrali quando si inseriscono queste lenti all'interno dell'occhio. Conti che queste lenti sono state approvate dall'FDA americano, che è, diciamo, un ente superiore e che supervisiona tutte quante i device medici, cioè tutte quante le cose. Lo conosciamo mediche, essere benessere anche, esatto, e che ha approvato questo tipo di lenti per l'uso nei miopi elevati selezionati dal 2003. Quindi noi, che abbiamo più esperienza di loro in questo campo, assistiamo al fatto che gli americani vengono da noi per imparare come gestire e come far funzionare al meglio questo tipo di procedure. Abbiamo molto da insegnare. In questo caso sì. Professor Rossi, la ringrazio per essere stato con noi. Quindi questa opportunità possiamo regalarla ai nostri ascoltatori che hanno una miopia molto elevata. Grazie, professor Rossi. Prego, grazie a voi. Dottor Cialdone, il nostro amico Marco ci aveva anche chiesto se l'intervento è mutuabile. Sì, è vero. Dunque, è da qualche anno che il sistema sanitario ha escluso la correzione dei difetti refrattivi con laser a meno di casi particolari. Per esempio, ne cito uno, l'anisometropia, cioè ho un occhio che vede bene senza occhiali, l'altro c'ha meno 5 e allora posso farlo anche col sistema sanitario. Altrimenti, diciamo, la chirurgia refrattiva viene oggi considerata in generale un optional, un surplus, e quindi il sistema sanitario, come sappiamo, oggi ha delle limitazioni, eccetera. In generale anche alcuni ospedali pubblici, non pochissimi, si sono attrezzati per offrire comunque, ma quello che comunemente viene chiamato ticket è un modo di dire per dire che si fa un intervento privato anche in un ospedale pubblico. Senta, dottor Cialdone, ci sono tre tecniche differenti. Vero. Ecco, allora, quando io vado da un oculista posso sentir parlare di LASIK, di LASIK, di PRK. Sì, allora, io mi confondo. Capisco, ci vorrebbe una puntata intera per spiegarle, ma rapidamente, l'oculista sceglie questa tecnica in funzione del mio occhio? Sceglie la tecnica che sa fare meglio? Quali sono le indicazioni? Certo. Proprio brevi. Sì, semplifico al massimo. La tecnica... diciamo, il trattamento laser è molto simile con tutte le tecniche, quello che fa il laser. Con una tecnica lo faccio in superficie, con l'altra lo faccio in profondità all'interno della cornea. Nelle miopie medio-basse, quindi fino a 6-7 diottrie, non c'è alcuna differenza, tranne che con la LASIK è molto più rapido, in 3-4 giorni il recupero visivo, la sensazione soggettiva, il benessere, il comfort. Con la PRK, cioè la tecnica in superficie, devo aspettare la guarigione un pochino più lenta. Detto questo, il risultato è praticamente identico. Ormai abbiamo studi a 7-8 anni che dicono questa cosa qua. Una cosa sola fa la differenza: con la LASIK, essendo tagliato la cornea con una lama, la cornea rimane, diciamo, forse leggermente più debole che rispetto con l'altro. Però sopra le 6-7 diottrie la LASIK è meglio, perché si corregge meglio. Questo è un problema tecnico che non dettaglio, ma comunque il risultato è questo, in modo che noi siamo anche informati. Ma in questa puntata in cui abbiamo con i vari esperti parlato delle luci, delle ombre, della chirurgia refrattiva, di quando è indicata, di quando invece non può essere eseguita e sconsigliata, io credo sia giusto anche parlare di chi, pur avendo un disturbo refrattivo, non ha alcuna possibilità di risolverlo, non dico con l'intervento, ma neppure con un paio di occhiali, perché ci sono persone in uno stato di povertà tale che non possono accedere alle cure di un medico oculista, andare da un ottico, e quindi questo è veramente un problema sociale. Dedichiamo proprio l'ultimo minuto di trasmissione a questo, che vorrei sottoporre anche alla vostra attenzione. Ne parliamo con il professor Filippo Cruciani. Buongiorno professore. Buongiorno. Oculista, ricercatore al Dipartimento di Oftalmologia all'Università La Sapienza di Roma, molto legato alla IAPB, l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, di cui vi ricordo il numero 800 06 8506. Professor Cruciani, abbiamo proprio pochi secondi per ricordare questo grande problema sociale: persone che non vedono, hanno un disturbo refrattivo, ma vedono proprio, cioè vivono male perché non possono lavorare, non possono leggere. Professore. Questo è un problema che è emerso recentemente, prima era stato molto trascurato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è resa conto dopo il 2000 che esisteva una larga fetta di popolazione a livello mondiale che aveva problemi di visione e viveva in uno stato di ipovisione, se non addirittura di cecità, proprio perché non aveva la possibilità di correggere il difetto di vista. Oggi questo problema è stato quantificato e addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ci sono 145 milioni di persone nel mondo che hanno questo problema, che vivono proprio in uno stato di ipovisione, e addirittura 8 milioni che vivono in uno stato di cecità, perché il loro visus è al di sotto di un ventesimo. Professor Cruciani, noi siamo in chiusura, questo è sicuramente un problema grave che non va sottovalutato. Ricordo sempre l'impegno dell'IAPB, l'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità. Torneremo comunque su questo argomento. Professor Cruciani, grazie per averci aiutato un po' a definire la situazione. Buona giornata. Buona giornata a lei e ai radioascoltatori. Grazie anche al dottor Scialdone. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Vi aspetto.